Riflessioni da Marte. A dire la verità, questa settimana quassù da Marte si è capito ben poco, puntando il telescopio nella nebulosa terrestre, in particolare manco a farlo apposta in quella italica. Se infatti il presidente del Consiglio, professor Mario Monti, ha detto qualche giorno fa, poco prima di presentare la manovra, non ho parlato di lacrime e sangue, perché poi le lacrime invece ci sono state veramente? Perché la ministra Fornero, dopo che tra l'altro precedenti politici e ministri erano abituati a esprimersi con pernacchie, sbadigli, insulti e diti medi, si è commossa per le non troppo magnifiche sorti e progressive degli italiani? E io vago! E perché se la ministra ha pianto, squassata dalla marissima medicina da somministrare alla penisola italica, il precedente presidente del Consiglio, rotto l'insostenibile silenzio che osservava inspiegabilmente da qualche giorno, ha detto: non dobbiamo preoccuparci, l'Italia è uno stato indebitato, ma di cittadini benestanti. Insomma, non si capisce più nulla. Una piange affranta, l'altro sorride rassicurante a 54 denti. E io vago! Persino le parole, diciamolo, non sono più le stesse. Lì ci torna, ma si chiama IMU, generando una tale confusione che per poco non intervenivano gli animalisti pensando che si trattasse dell'EMU, una specie di grazioso struzzo. Del resto, uno struzzo sulla prima casa sarebbe stata davvero un'insopportabile crudeltà per lo struzzo, naturalmente. Meglio l'IMU, dunque. E io vado! Ma anche un termine come anziano, per esempio, non si capisce più cosa vuol dire. Prima si diceva un pensionato per dire un uomo anziano, ma adesso come si dovrà chiamare uno che sembra un po' attempato, ma ancora davanti a sé tanti anni di lavoro e di contributi da versare? Uno che non ha più il lavoro, ma nemmeno ancora la pensione, come lo si deve chiamare? Ed inoltre, se si allontana la pensione perché aumenta l'aspettativa di vita, lavorando di più, l'aspettativa di vita si accorcerà e si dovrà riavvicinare alla pensione? Gli inquirenti brancolano nel buio. Certo, sulla lapide di qualche caro estinto strangolato dal caro benzina si ricomincerà a scrivere: l'accise l'uccise. E io vado! Ma c'è tuttavia di che consolarsi, diciamolo, guardando a chi sta peggio. Il governo della Gran Bretagna, dopo essersi isolato dai paesi dagli ultimi accordi dell'Unione Europea, ha invitato i medici della mutua, per arginare appunto la crisi, a tagliare il Viagra ai pazienti che ne hanno diritto. Da 4 pillole al mese a 2 e basta. E se prima lo facevano 4 volte ogni 30 giorni, ora lo facciano 2 volte al mese. Eh sì, anche il sesso in tempi di magra diventa un lusso.